Giochi sul nostro tavolo, il podcast ludico. Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Giochi sul nostro podcast. Oggi non siamo da solito gruppo, ma sono io, Fabio, e ospito una persona, un autore abbastanza conosciuto. Si tratta di Pierluca Zizzi, che è autore di Augustus, quelle mori, no, fatto Amerigo, no, quelle fette. Magari. Village, ma che cacchio hai fatto, scusa? Cioè, a parte scherzi, lo so benissimo che cosa ha fatto, volevo metterlo un po' in difficoltà. Un saluto a Pierluca, che presentati pure ai nostri ascoltatori. Ciao a tutti, sono Pierluca Zizzi. Vabbè. Se volete mi descrivo più a lungo. Bravo, no, perché io posso dire che come i titoli principali che ha fatto, ma vado poi a gusto, perché lui comunque ha la sua paginetta intera di titoli su BGG. Cioè, l'anno scorso era She the Asgard, che sono i principali, ma anche Movie Trailer. E poi qual è il titolo dei precedenti al quale sei più affezionato? Ma probabilmente Arcanum, sempre in collaborazione con Andrea Chiarvesio, faccio molti giochi con lui. E è importante dirlo perché molti miei titoli sono appunto in sua collaborazione. Poi Caligula è il mio primo gioco pubblicato da altri e non autoprodotto, quindi anche a quello sono affezionato. Ok. Ci siamo rivisti a Essen, dove abbiamo preso appunto accordi per questo. Come è trovata la fiera quest'anno? È cambiato tutto, non è cambiato nulla, nel senso che è tutta in altri padiglioni, più grandi, più lunghi, più confusione forse, perché non siamo abituati, ma in realtà la tendenza generale degli editori nazionali e internazionali è la stessa. Dominano quelli importanti e poi ci sono una miriade di piccolini che non ricorda nessuno e che, ahimè, statisticamente sono destinati o a scomparire o a evolversi in qualcosa di diverso. Beh, a parte che ti dirò, io parto sempre dal presupposto che ogni anno si va a Essen e nonostante che è l'era di internet, che ci sia tutto preprogrammato, eccetera, ogni po' esce fuori qualche titolino del tutto inatteso che riesce nel suo piccolo a sbancare, cioè semplicemente a vendere. Io sono molto contento di questo, peraltro. No, sul serio, nel senso che, vabbè, come tu probabilmente saprai, ne abbiamo parlato, il prossimo anno sono edito da editori anche abbastanza importanti, però ad esempio uno dei miei editori, di cui sono singolo autore, perché non collaboro con altri per quel titolo, è un editore polacco, in realtà lui è rumeno, vive in Polonia, ed è un editore piccolo che si sta evolvendo, uno che di si quelli chiama, che spero... dai, che ci siamo, lo si chiama anche... NSKN Legendary Games. Sì, allora li conosco. Sì, sì, sì. Hanno fatto diversi titoli anche abbastanza abbastanza noti, poi tutto sommato. Ne hanno 5 in uscita. Ups. Sì, ne hanno 5 in uscita, di cui uno è il mio, per la prossima Essen, programmato per la prossima Essen. E possiamo dirlo il titolo, tanto ormai abbiamo quasi tutto definitivo con loro, si chiamerà Simurgh come titolo. Ma non è quello, quella cosa paurosa sugli ittiti che mi ha fatto provare a Modena? No. Quella roba lì non l'ha avuta nessuno, sto scherzando. Allora, quella, se vuoi, facciamo una trasmissione a parte per far ridere. Col permesso di qualcuno che forse ci ascolterà, per far ridere gli ascoltatori, perché sta avendo un'evoluzione folle, strana, molto divertente per quanto mi riguarda, ma assolutamente inaspettata. Siamo arrivati agli alieni praticamente ormai, giusto? Ma se ne parlava il giorno stesso. Perché si va in quella direzione. No, perché il giorno che mi ha fatto questa prova alla Play, diciamo... Il buon Zizzi ci ha trascinati un gruppettino, ci ha detto: faccio provare il mio nuovo prototipo, è un giocone sugli ittiti, va bene, allora giochiamo questo gioco. A metà gioco qualcuno comincia a dire: beh, ma sì, sai, tutto sommato è abbastanza a tema, e poi da lì è partito, come dire, la chiacchierata iperbolica sul fatto che poi sarebbe diventato un gioco sugli alieni, e vedo che la cosa è che poteva essere come allora, beh, adesso non posso darvi anteprima, perché l'editore che è interessato a quel gioco, al gioco, sì, sugli Hittiti, sì, che come titolo aveva A Lion's Empire, sì, possiamo dircelo, è molto interessato. In realtà mi ha cambiato completamente l'ambientazione, sì, e l'ambientazione, anche non posso raccontarvela, non è così lontana come quella degli alieni, ma è qualcosa di completamente diverso, e gli autori di giochi sono drammaticamente abituati a questo. Ma guarda, già che ci siamo, così introduciamo un pochino, cioè il motivo poi di avere un autore per la chiacchierata è quello di sfruttare un po' di insight, no? Cioè di vedere un po' quello che è l'atteggiamento. Io, certo, tempo fa mi è capitato, chiacchieravo con un ragazzo, adesso non vado troppo nei dettagli per non identificarlo, ma chiacchieravo con un ragazzo che aveva inventato un gioco che a lui piaceva molto. Ed erano praticamente anni che lui continuava ad affinare questo gioco. Diceva di averlo proposto ad alcuni, i quali gli avevano, tipo editori, gli avevano detto, ma tutto sommato sarebbe fattibile, però come dire, lui erano una roba tipo 10 anni che ci lavorava su questo giochino, e ogni po' ci aggiungeva qualcosa. Penso che i componenti fossero arrivati a un livello commercialmente intollerabile. E lui però diceva, beh, cioè, ma se è bello, è bello così. Cioè, io cosa ci devo togliere? Cioè, sembrava un po' come dire a Michelangelo, scusa, toglici un po' un orecchio a quella statua, perché cioè, con uno starebbe meglio. Allora, intanto forse ho capito di chi parli, non facciamo nomi. No, ma in realtà la storia è ripetibile, dubito che tu lo conosca, sì, questo. Sì. Comunque è molto ripetibile ed è uno dei classici atteggiamenti degli autori di giochi, sia diciamo così professionisti, sia che non hanno mai pubblicato niente, è uno degli atteggiamenti, dicevo, errato, potenzialmente errato se vuoi pubblicato, diciamo. È certo, comprensibile da un punto di vista umano, e io faccio il tifo per questo atteggiamento da un certo punto di vista, e invece lo depreco se si vuole arrivare al risultato della pubblicazione, perché chiaramente che va cambiato qualcosa. Se vuoi posso raccontare in un minuto, sì, sì, un perché molto importante. Il perché molto importante è il seguente: l'editore che ci smena tanti soldi per un gioco, o tanti o tantissimi, perché insomma adesso i numeri non li facciamo, ma si va magari su cifre 20-30 mila euro, anche di più, dipende, o anche molto di più, chiaramente lo cambierà il tuo gioco, ma per motivi giusti, corretti, perché la visione tua non è mai perfetta sul tuo gioco, e perché lui si suppone sia un professionista, o più probabilmente un team di professionisti, e che quindi vedono qualcosa nel tuo gioco, nel prototipo, che va cambiato e che probabilmente tu stesso non vedi. Certo, ma è molto difficile, e poi lo migliorerà perché nel suo interesse, perché lui vuol vendere di più, quindi è chiaro che lo vorrà migliorare. Questo dà adito, immagino, agli ascoltatori al fatto che molti giochi peggiorano dopo che sono andati in mano agli editori, ma è un'eccezione, genericamente un'eccezione. Io ho sentito infatti un paio di storie di giochi che per piacere dell'editore poi non sono andati incontro a quelli che erano i gusti dell'autore, e poi l'autore in bene e male non se l'è tenuto per sé, cioè quando il gioco non è andato poi benissimo o poteva andare meglio, ha detto sì, però io suggerisco questa variante che in realtà era la mia. Cioè, a volte l'autore è uscito dicendolo, me l'hanno cambiato, un po' come il regista che gli hanno tagliato due pezzettini di film. Certo, succede, per carità, è successo anche a me. Possiamo raccontare, sì, molto molto brevemente Asgard, uh-huh, il gioco dell'anno scorso con What's Your Game, quindi un ottimo editore con una buona fama internazionale per tanti motivi, quasi esclusivamente per gamers, anche se sta tentando di cambiare la linea editoriale per sì, certi versi, di ampliarla. Beh, noi ci abbiamo lavorato quasi 3 anni su quel gioco, e il prototipo originale, che era il mio I Mercanti di Oniria, autoprodotto tanti anni fa per Essen, è stravolto così tanto, ma così tanto, che non è più lo stesso gioco, ha solo la meccanica principale identica e tutto il resto diverso. Questo è un'esagerazione, però poi Asgard è un buon prodotto, quindi io non posso che, diciamo... Ma ecco, una cosa che ti chiedo è questa, proprio ti prendo il via da quello che mi stai dicendo. Cioè, quello che noto è che più o meno, adesso, io sono un sostenitore dell'idea del fatto che i giochi da tavolo sono in continua evoluzione e difficilmente vediamo qualche cosa di proprio che ha fatto un salto evoluzionale. Cioè è un'evoluzione continua, ogni anno vedi qualche cosina di nuovo e di fatto ogni gioco lo identifichi un po' con la sua meccanica principale. Cioè tutto il resto poi alla fine, che ci siano delle carte, dei tripolini, delle cose, è un po' il contorno. Forse la meccanica, l'idea proprio, cioè il gioco nasce su un'idea, può essere così? Beh, è la domanda che penso rivolgano più spesso, anche se con altre parole, agli autori. Personalmente io rispondo in maniera diversa, ovvero io faccio nascere i giochi con l'ambientazione. Sì. Poi te la stravolgono, certo, però te la fai nascere, vedi lì, ok. Certo, in media sì, è vero, è vero. E cerco un'ambientazione, di attaccare all'ambientazione una meccanica che spero sia originale o abbastanza originale. Ho un'idea più matematica che serva all'ambientazione che sia utile e funzionale. Molti altri autori non fanno così, molti altri autori inventano una meccanica proprio completamente senza ambientazione e addirittura osano, dico io, osano proporre solo la meccanica senza ambientazione, uh-huh. Cosa che per me è impossibile, io non ci riuscirei. Io ho una vaga idea che Feld sia di questa seconda categoria. Sì, certo. sì, cioè già quando lo finiscono non si vede l'ambientazione, quindi... Certo. Questo è una delle cose che dicevi tu sull'evoluzione del gioco. Sì. Io credo che ci siamo, che negli ultimi 10 anni sia accaduto effettivamente una rivoluzione irreversibile nel gioco da tavolo, ma che si stia andando verso qualcosa di diverso, ovvero microambientazioni, ambientazioni più specifiche con dei giochi a volte più piccoli e quando i giochi sono molto grossi e complessi hanno non sempre un'ambientazione, ma tentano di averla e soprattutto hanno 2 o 3 meccaniche riconoscibili che a volte sono un mix importante di meccaniche. Se ci sarà un modo di essere diverso dei giochi da tavolo, lo vedremo sicuramente, secondo me ci sarà, lo vedremo nei prossimi anni. Io sto tentando di proporre qualcosa di nuovo agli editori, ad esempio NSKN Games ha visto nel prototipo che ha visto Norimberga, quindi neanche un anno fa, il febbraio dell'anno scorso, quello che lui ha reputato essere una buona idea, non tanto di meccanica ma di modo di giocare con la plancia. Questo gioco non ha una sola plancia, a varie plance di gioco, quindi cambiano le plance. Sì. Questa idea che è alla base del gioco è, no, non sto dicendo che sarà il futuro per carità. No, però cioè, è un'idea per andare un po' fuori dagli schemi standard di oggi. Esatto, ecco. È quello che secondo me deve fare un game designer che vuole sperare, lo dico a tutti i non game designer, in una pubblicazione diciamo un po' più originale, non solo basata su idee trite e ritrite, quindi cercare qualcosa di nuovo. Facciamo... Guarda, a proposito che hai cominciato a parlare degli aspiranti game designer, così, cioè, come dire, è una specie di piccola catena di domande che nasce un po' da quello che dici. Spesso mi contattano dei lettori del blog che poi tutto sommato magari sono molti, oltre che giocatori, alla fine coltivano il loro sogno nel cassetto del loro gioco, o 2 giochi, certo, o 3 giochi che hanno ideato. Sono convinti che possa girare. Un'occasione, mi ricordo, chiacchierato anche telefonicamente con uno di loro che aveva partecipato anche a un premio arrivando in una delle prime posizioni, e poi mi dice, lì mi si è arenato tutto, cioè era riuscito ad arrivare a un secondo, terzo posto di un premio importante, non è riuscito a fare la pubblicazione e poi non è più riuscita ad andare avanti. Quali sono i passi? Perché, cioè, tu, diciamo, sei un emergente nel senso che vedo che il tuo primo titolo autoprodotto è nel 2007, poi 2009 Caligula, se vado a vedere la scheda c'hai già 3-4 uscite nel 2011, 3 nel 2012 e mi dici che ne hai diverse altre in arrivo, quindi, cioè, ti stai espandendo progressivamente. Diciamo, una volta che poi il nome è entrato poi diventa più facile, ma come si fa a iniziare a farsi stare? È la cosa più difficile, ahimè, se avessi il tuo lettore di fronte... Come ha fatto il Zizi Allora. Ma no, vabbè, ma sai, il mio esempio può essere uno tra tanti, ci sono mille vie diverse. Io ho un vantaggio che sicuramente altri game designer hanno, ovvero sono abbastanza esplosivo. Io attualmente ho una roba tipo 15-16 prototipi pronti, alcuni già promessi ad editori, quindi io vado. È brutto dire sul numero perché non è vero. Io spero che ognuno di questi prototipi abbia una buona idea. Però quella è una strada, quella di, se si ha tempo e se si ha voglia, di preparare 4-5 cartucce, non certo 16, per carità, anche 2-3 cartucce nella propria pistola e non fissarsi, come nell'esempio che abbiamo fatto prima, con il gioco perfetto di cui sei innamorato. Quindi iniziare questo come approccio generale, ovvero se vuoi proporre degli editori non puoi sperare che col tuo capolavoro che venga capito subito e che sicuramente qualcuno te lo pubblichi, perché magari il mercato non gliene frega niente in quel momento del tuo prodotto, del tuo gioco, che ne so, sulla terza guerra mondiale, perché non gliene frega niente a Sì, o nessuno. magari Quindi. l'editore è sbagliato, magari stai andando dalla persona sbagliata a farlo Certo. vedere, però ne hai due o tre diversi e riesci a Certo. interessarlo su qualche cos'altro. E qui veniamo alla seconda cosa, seconda caratteristica che bisogna avere, conoscere gli editori, che non è una cosa così difficile. Non è detto che ti telefonino nell'istante stesso in cui tu gli scrivi una mail o ti fai vivo, perché alcuni non ti daranno retta, molto semplicemente perché non sanno chi sei, perché hanno già degli autori di riferimento. Però molti editori, ad esempio, quelli italiani che conosco meglio, sono delle bravissime e disponibilissime persone che nelle fiere nazionali più conosciute, Play, Giocatorino, meno conosciuta Giocatorino, Lucca no, perché Lucca è un C'è problema, una gli altri bolgia, sì, fanno. come tempo, Sì, come non spazi, si sì. può fare. IdeaG, di cui magari tu avrai parlato sicuramente in altre occasioni. L'editore incontra gli autori. Magari cerca proprio in quel periodo un bel gioco, tu arrivi con i tuoi due prototipi, magari lui te ne vede solo uno e ti dice sì, ok, lasciami il prototipo, ti faccio sapere entro 2 o 3 mesi, quattro, Ecco, il cinque. prototipo, perché io chiacchieravo con degli amici proprio che hanno preparato due o tre prototipi e erano andati un pochino in giro. Mi hanno fatto vedere al volo, io con la prima cosa che avevo notato è che avevano un prototipo fatto su carta bianca Sì. e inoltre c'era un manuale scritto proprio su Word senza immagini. Allora, un mio pensiero è quello che, come dire, se ci hai lavorato un pochetto, perdici quella mezza giornata a dargli anche solo delle immagini prese da internet, anche solo due disegnini fatti a mano tuo per spiegarli, ma che, come dire, diano l'idea di un qualche cosa di più fondato. È giusto perdere un pelino di tempo anche per la presentazione, oppure secondo te il prototipo deve essere duro e puro in carta bianca solo per farsi capire? Allora, beh, chiaramente non c'è una risposta univoca. Lo chiedi a Paolo Mori, come lui ha avuto modo di dire in altre occasioni, i suoi prototipi sono, beh, scusami Paolo se sei in ascolto, sono molto brutti da vedere, ma lui stesso lo dice, quindi non insultiamo Paolo che è un amico, è una persona meravigliosa. È una scelta sua, Dunque, diciamo, per è una lui. scelta, beh, come lui stesso dice, lui ha accomunato con altri autori affermati o dilettanti col fatto di magari non avere gli strumenti di grafica, di conoscenza informatica o di voglia o di tempo, essendo che lui ha dei figli, un figlio credo, di poter fare dei prototipi più belli. Detto questo, chiaramente il prototipo più bello, non una bellezza fine a se stesso, più chiaro graficamente, più fruibile da parte dell'editore, è chiaramente un vantaggio. Perché se questo qui vede i disegni bruttini su un'ambientazione abbastanza astratta, anche se l'ambientazione magari ce la dovrebbe avere il tuo gioco, pretende di averla, e poi non riesce bene a capire cosa c'è scritto, chiaramente gli passa la voglia, ma è comprensibile. Anche perché c'è un altro vantaggio di fare dei bei prototipi, anche se, attenti, non spendeteci un mese di Sì, io grafica a parlavo di fare. una giornata o due, ecco, cioè il tempo che poi ci Certo, metti certo. per, non so, invece di arrivare con le tesserine di cartoncino normale, ti compri il cartoncino più spesso, cioè, e ci appiccichi sopra le etichette, ecco, cioè che diventa una plancia che non voli via col soffio con un colpo di tosse, ma una plancia su cartoncino, o la poi un regolamento, insomma, quelle cosine così che, cioè, ci metti alla fine, ci metti veramente, vai in cartoleria, la plastifichi, costi 3 euro plastificartela, sì, però sì, l'effetto sì, a vederlo è tutt'altro. Ma certo, poi una cosa importante, questo è un mio difetto, sicuramente abbastanza grave, il regolamento va scritto bene. Allora, io con gli anni ho imparato a scrivere regolamenti, e purtroppo ultimamente anche in inglese, dico purtroppo perché è una delle cose più noiose, cioè, a volte preferirei farmi mettere sotto da un carro armato, però... Però va fatto, perché ormai mi riferisco soprattutto a editori internazionali, sì, che vogliono il regolamento in inglese. Quindi, comunque, questo regolamento va scritto bene. Aneddoto che sicuramente interesserà te e tutte le persone che hanno la pazienza di ascoltarmi. Ad Essen, Michael Fronia, anzi Michael, visto che è tedesco, mi ha restituito un prototipo che io gli avevo dato prima dell'estate a Parigi, sì, facendomi l'elenco delle cose che non funzionavano. Tra le cose che l'elenco, cioè, proprio... elenco, sì, lungo, ma non ho... Tra l'altro non erano di, vi stupirà, non erano di meccanica, e neanche di ambientazione, erano punti anche difficili da spiegare, ma abbastanza lunghi da spiegare, sulla fruibilità del gioco e la percezione che i loro playtester avevano avuto di alcune cose del gioco, premettendo che il gioco gli è anche piaciuto. Uh-huh. E quindi ha detto, è un buon gioco, ma non è così bello da pubblicarlo, perché secondo noi ha questi problemi. Detto questo, che riguarda il gioco nello specifico, lui mi ha preso il regolamento, perché di quello poi stiamo parlando, e mi dice, e poi i playtester non hanno capito alcune cose, e quindi, chiaramente in inglese me l'ha detto, e quindi hanno continuato a giocarci dicendo, vabbè, sarà così, interpretiamola in questo modo. Sì. Ecco, questo non aiuta, naturalmente non aiuta. Quelli sono dei professionisti, e probabilmente i playtester sono dei professionisti anche loro e di molte case editrici, ma normalmente è l'editore che si legge con un gruppo di amici il regolamento e deve capirlo, perché se non lo capisce si annoia, iniziano a avere veramente delle idee strane sul tuo gioco. E quindi, insomma, è meglio che sia scritto, sì, molto bene. È molto meglio chiaro, ridondante, è meglio, come dire, spiegato proprio da elementari, vedo, piuttosto che andare sulla sintesi. Io vedo delle volte, tanto faccio un paio di esempi su cose grosse. Russian Railroad è un regolamento che è uscito adesso, sì, quest'anno, a Sim Gluck. Uno dei pochi che ho presente, combinazione. È un regolamento di 24 pagine, però quando hai finito di leggerlo, non ti dico che è come aver letto un libro, perché non è quello, però quando hai finito di leggerlo hai la netta sensazione di aver capito come gira il gioco. Cioè, bene, questa è un'ottima cosa. Quindi questo vuol dire che è scritto bene. Mentre, io mi ricordo Luna di Feld, Feld, e tieni conto che io ne leggo spesso di regolamenti per scrivere le anteprime, senza aver ancora giocato, quindi, cioè, c'è una certa abitudine. Ti assicuro che ho dovuto leggere il regolamento 3 volte e vedere due volte un video che spiegava come si gioca. Non riuscivo a entrarci. Certo, immaginatevi l'editore che ha il prototipo non con i pezzi finiti, ma con robe in bianco e nero, materiale un po' più scadente, giustamente. Esatto. Quindi quello effettivamente si può... Possiamo dare un consiglio, anche questo brevissimo, bisogna conoscere i giochi, per fare il game designer bisogna avere un bagaglio culturale di giochi, e magari ci si può riferire a regolamenti esistenti di giochi vagamente simili, tanto giochi identici non ce ne saranno, però prendete un regolamento qualsiasi di un gioco edito, vi guardate come è diviso. L'impostazione, sì, esatto. Certo, l'impostazione, e si copia l'impostazione. Fare le foto, guarda, faccio lo splendido, Fabio, in questo momento, stasera ho l'appuntamento con un mio amico, che è un ragazzo giovane che non ha mai pubblicato niente, mi ha proposto una collaborazione per un gioco, io l'ho portato a Essen, è piaciuto, a White Goblin, possiamo dirlo. Uh-huh. E, Stasera ci troviamo per finire il regolamento. Volevo farti una battuta su White Goblin, poi te la faccio dopo. Ah, vabbè, dimmi, che non un no, nel senso che c'è stato un amico molto. Che mi ha detto, beh, White Goblin è uno dei meno selettivi, nel senso che ogni anno escono sì, poi vero, no, no, ma è vero, il tuo amico ha ragione. E ha pubblicato tante robe abbastanza discutibili, e poi ha azzeccato un paio di titoli. Sì, no, quello senza dubbio. Poi ha anche cura, in realtà dei prototipi no, ma sembra... cioè, come realizzazione non mi fa intendere, non volevo parlarne male, è una battuta. No, ma finito, non cioè, sono diciamo... io White Goblin. No, nel senso che, allora, secondo me è una casa che ha come componentistica una buona, una bella attenzione, perché effettivamente i suoi giochi difficilmente, dici, sono fatti male, hanno dei componenti brutti. L'unica cosa che ne sfuorna veramente una manata, cioè un numero notevole ogni anno, e quindi fai un po' fatica lì dentro, cioè la sensazione che poi tu hai è quella della qualità media. Sì, è vero. Tu dici, cioè se una casa esce, tipo l'Ansem Gluck, esce con due titoli all'anno, la qualità media è eccezionale. Sì, elevatissima. Perché dici, è vero che ogni tanto ne sbaglia qualcuno, però cioè, mediamente tu dici, vabbè, io lo compro, io tutti gli anni vado là a Essen, lo compro a scatola chiusa, perché so che comunque certo. Le probabilità sono elevate. Con loro sono 10, è vero che mediamente in mezzo a quei 10, uno, per esempio l'anno scorso a me è piaciuto New Amsterdam, mi è piaciuto. Ah, se conosco di vista solo. A me è piaciuto abbastanza, sono l'unico a cui è piaciuto del gruppo, quindi già c'è lì sullo scaffale, però mi è piaciuto quello. Però devi trovarlo in mezzo ai suoi 7-8. Quello che ti piace sì, a te, sì, è sì, solo sì. Quello. Sono politiche editoriali diverse. T'ho interrotto. Vai. Vado a casa di Riccardo Appino, si chiama così, spero sì. Che vedrete il suo nome sulla scatola del nostro gioco, e a fare le foto durante la partita, sì. Le foto che noi allegheremo al regolamento, okay. Dicendo la situazione che vedete fotografata anche su una parte della plancia delle pedine, fa vedere questo e quest'altro. Questo aiuta naturalmente perché il signor De Vries, che è praticamente l'editore di White Goblin, si chiama De Vries, è olandese, avrà pur diritto di capire bene quello che gli stiamo propinando. Esatto. Quindi è importante quindi questo discorso di comunicazione, quindi quello che abbiamo trasmesso ai nostri certo. Autori in erba è questo discorso di comunicazione. Poi c'è una parte che, se mi permetti di autofarmi la domanda, ma è una qualcosa di fondamentale. Prego, Mazzullo, si facci la domanda e si rispondi. Sì, sì, mi autofaccio. Allora, il problema è la presentazione anche, perché in quei 5 minuti, perché non crediate che siano molto di più di 5 minuti, il momento in cui parli con l'editore o chi per esso, ti giochi tutto. E bisogna sapersela giocare. Ora, riassumere qui i trucchi o semplicemente la capacità di comunicazione è impossibile, perché è un'arte, perché è qualcosa che o ce l'hai o non ce l'hai. Genericamente ho notato, con questo spero di non tagliare le gambe a nessuno, che gli autori pluriediti sono persone con una buona parlantina o con una buona capacità di comunicazione. C'è. Allora, chi ci ascolta potrebbe dire, beh, allora il gioco magari non è così bello, però tu sei un ottimo venditore porta a porta e riesci a piazzarli. No, non voglio dire questo, è semplicemente un valore aggiunto, è il fatto che se tu ti inciampi nelle parole, in una lingua non tua, perché nella maggior parte dei casi io presento in inglese i miei giochi, yeah, e spieghi male la regola, te la ricordi male, e poi hai delle eccezioni, e già la grafica non aiuta, e poi tu sei imbarazzato, ti sudano le mani, ti cadono le robe... Si dice a quel punto la persona che è davanti non vede l'ora che siano 4 invece che 5 minuti. Sì, esatto. Che spenderà con te. Poi, una cosa che dico sempre, allora, fuori dal mestiere di autore di giochi, io faccio conferenze da tanti anni su altri argomenti, lasciamo perdere su che cosa. Questo consiglio che sto dando lo do a chiunque mi dice: ma io sono molto timido, non ho mai parlato in pubblico, non ho mai fatto una presentazione di alcunché a nessuno, come faccio? Oddio, sono disperato. E il problema non si pone, perché chi è lì per ascoltarti non è lì per darti un voto e spararti se tu non sei stato bravo, è lì per cercare un prodotto che gli faccia fare bene il suo mestiere. Cioè, interesse reciproco, ti vuoi essere pubblicato certo. E lui vuole guadagnare qualcosa dalla pubblicazione. Ma è chiaro, se lui scopre un bel gioco, è contento, è molto contento, e magari si scopre anche una persona che gli fa fare due risate, è un trucchetto classico da venditore questo, di rompere il ghiaccio prima di presentare il gioco, gli chiedi come sta, come è andato il viaggio, se Essen quest'anno gli piace, e gli fai una battuta sul fatto che sei in 3 ore in ritardo. No, questo non lo fate mai, non andate mai in ritardo agli appuntamenti. Questo aiuta a metterlo in una condizione in cui capisce che di fronte a un essere umano e non una macchina che presenta un gioco, ecco, perché, no, okay. Perché è sbagliato. Quindi instaurare un po' di empatia con quella persona con cui parli. Sì, essere anche rilassati e pensare che non è la prova della tua vita, ce ne saranno altri ben più importanti. Ecco. Vai, adesso, visto che ci sei, la parte finale la dedichiamo più a te, nel senso che... Grazie. Prendosi, d'altra parte, visto che sei proprio te, cioè, allora, bello non sei. No, no, assolutamente, possiamo dirlo. Non... Mi dispiace per tutte le giocatrici, facciamo un appello, dai 25 ai 40 anni, io ne ho quasi 43, non sono bello, mal per voi. Quindi diciamo che non insisterai per avere la tua foto sulla scatola dei giochi. No, no, no. Succede? Sto scherzando, ovviamente. Neanche Feld è bello, però. No, sì, in realtà è un uomo altissimo, ed è pelato come me. Quindi qualcosa di buono c'è, connection si dice. Va bene, allora partiamo. Io parto un attimino dai titoli principali che vedo tuoi e ti chiedo che cosa a distanza di tempo. Io parto da Caligula, che è stata la tua prima uscita professionale, tra virgolette. Sì, giusto. Che cosa cambieresti di Caligula oggi? Oppure la tua risposta è secca, non cambierei un bel niente perché fa parte della mia storia. L'accetto, molto zen. Cambierei i materiali, beh, però questa è questione dell'editore, non di game design. No, okay. I materiali che ci hanno fatto vendere meno il gioco è stato venduto in ogni sua copia, credo, sì. Però con grande difficoltà, e non è stato riedito proprio perché ha dei... non è vero che sono pessimi i materiali. In realtà, a mio avviso, quel gioco, e poi finisco una risposta lunga, ha i migliori materiali possibili per i 20 euro che costava il gioco. Sì, quindi... ho scritto, ma ha secondo me fatto un piccolo capolavoro editoriale che, come spesso capita, non è capito. Non è capito perché, no, perché diciamocelo, i giocatori preferiscono spendere 10 euro in più per un gioco che abbia cose più ricche, più grandi, più belle, più colorate e anche più pesanti, e quindi quello è stato un errore, cambierei quello. Guarda, io una cosa che ti dico di mio, adesso non è per visto che sei qua per farti dei complimenti, la cosa che mi ha lasciato, poi è un gioco che a distanza di tempo ho dimenticato un po', però la cosa che mi ha lasciato è quella che mi dà la sensazione che fosse un titolo che anticipava un pochino i tempi per il discorso del tipo di uso di carte. Cioè quest'anno, per esempio, se andavi a Essen vedevi diversi titoli, anche dei gestionali, per capirci, che cercavano di eliminare il più possibile altri materiali per incentrarsi sull'uso di carte. E quello era uno dei titoli che in effetti voleva concentrare tutto, cioè eliminiamo il tabellone, che all'epoca invece era più diciamo di moda, e cerchiamo di concentrarci su materiali meno costosi, ma comunque della stessa efficacia. Era un po' l'idea del gioco, tra l'altro gli editori che mi conoscono da un po' di anni, prima delle ultime uscite, si ricordano se hanno giocato a Caligula, e tutti mi dicono che aveva un bell'uso delle carte, un bell'uso delle regole, era un gioco molto interessante. Quindi, cioè, in realtà è stato un buon biglietto da visita, ecco, secondo me quello mi ha aiutato bene con i giochi successivi. Invece credo, eccoci qua, che hai fatto il cammino inverso probabilmente con Arcanum. Arcanum è intanto una collaborazione con Andrea Chiarvesio, sì, doveroso dirlo. No, ma non sto dicendo che è peggio, ho detto cammino inverso, nel senso che mentre nell'altro senso sembrava essere un discorso anticipo i tempi con un buon uso delle carte, eccetera, e qui è sembrato che hai fatto un po' il passo opposto, cioè siamo tornati a un tabellone che forse poteva essere utile perché è bello, per tutto quello che vuoi, però appesantisce un pochino i costi, eccetera, eccetera. Certo, sì. Allora, il gioco, tra le idee forti che gli abbiamo dato, volontariamente, come dici tu, è quello di puntare su una bella plancia, bella grossa, disegnata benissimo, io credo, lo dico con presunzione, così mi potrete crocifiggere da domani o anche da oggi, che sia una delle più belle plance esistenti sul mondo dei giochi. da un punto di vista artistico, sto parlando del disegno, della qualità del disegno. Sì, poi l'editore era specializzato praticamente nei certo, disegni, quindi... è chiaro, io li conosco benissimo, mi hanno pubblicato altre cose riguardo ai tarocchi, io sono anche un autore di tarocchi, possiamo dirlo, via. E, poi l'utilizzo degli scacchi, quei pezzi degli scacchi molto importanti e delle carte che vanno verso in realtà un utilizzo classico quasi del gioco tradizionale, dei giochi di carte tradizionali antichi, nel senso che è vero che poi li usi in maniera diversa, però comunque sono un mazzo di tarocchi, quindi hanno i semi e hanno i numeri. Quindi sì, si è andato verso un'idea più normale, più standardizzata, e si è puntato molto sulla bellezza, premesso che quel gioco ha una meccanica molto molto interessante di bluff, di gioco nascosto, che in media piace a tutti, esclusi i gamers puri un po' fissati con i giochi alla tedesca, ma quello è insomma... Però non ha sfondato questo Arcanum. Arcanum non ha sfondato, direi che ha venduto anche lì, in realtà col tempo ha venduto quello che doveva vendere, non è stato riedito, che è un segno del fatto che il gioco è arrivato alla fine della sua vita. Ha fatto il suo ciclo, non è male. Sì, ha fatto il suo ciclo, che lo sappiano gli autori in erba, mettetevi la mano sul cuore, il ciclo normale di un gioco che non ha un grande successo, questo non significa che non abbia, che abbia un insuccesso. Insomma, il ciclo normale di un gioco medio è di 2 anni, tre anni se tutto va bene. Sì, dopodiché finisce nei 3-5 euro della fiera di Essen. Sì, oppure un pochettino di più, sì, ma comunque siamo lì. Comunque siamo lì, certo. Quindi sì, Arcanum comunque è un titolo che a me piace tantissimo, per tanti valori aggiunti che il titolo stesso ha, compresa la copertina che ci ha fatto dannare, si potrebbero raccontare aneddoti sulla donna mezza nuda in copertina, che era più nuda. Raccontane una. Vabbè, era un pochino più discinta, in sostanza. Sì, era leggermente più discinta. Si vedeva una piccola parte del seno, essendo che il gioco era stato comprato anche da distributori americani, ed è questo l'aneddoto. Ci è stato detto, non tanto dal distributore americano, ma anche da altri consulenti, no, copritegli parte delle bellezze. No, ma soprattutto invece la censura vera e propria, quel gioco ha subito, diciamo così, un'autocensura. Il distributore americano ci ha detto alcune delle carte, delle 78 carte contenute, e tutte con dei disegni diversi l'uno dall'altro. Mettiamoci delle pezzuoline, come si faceva esatto, una volta. No, abbiamo dovuto cambiare, quindi abbiamo dovuto scegliere dello stesso autore. Lui aveva fatto degli altri mazzi di tarocchi, abbiamo fatto un puzzle io direi il 90% delle carte del mazzo principale che abbiamo utilizzato. E poi le riserve per sostituire quelle più ardite. Più discinte, esatto, perché il mercato americano appena escono un gioco così, se lo beccano gli integralisti cattolici del Mississippi, ti denunciano il giorno dopo, ti fanno ritirare le copie, multona gigantesca, perché lì è così, sono bigotti, e il mercato va così. Quindi non fate un gioco sull'hardcore che va dagli Stati Uniti, lo pagate voi col vostro sangue. Ecco, l'altra cosa, adesso siamo quasi arrivati in fondo alle mie curiosità, perché adesso c'è Arashid. Allora, ti metti a ridere prima che cominci a dirlo. Allora, dico subito la parte positiva. A me Arashid è piaciuto molto, nel senso che è un gioco che mi è piaciuto sin dall'inizio. L'ho proposto addirittura a gruppi, probabilmente di persone meno esperte di quello che è necessario, perché lo vedevo nella sua cattiveria immediata, nel suo mettersi in fila uno con l'altro nello scegliere le azioni e tutto, lo vedevo abbastanza spiegabile e pensavo che fosse abbastanza percepibile anche dai meno esperti. Poi i fatti mi hanno smentito. Sì, certo, ecco, quindi, è un gioco per gamers quello. Questa è la premessa. Detto questo, lì per esempio le critiche maggiori sono state, indovina su cosa? È la grafica delle carte. La leggibilità di queste carte. La leggibilità, ma, sì. Allora, sì. La domanda che tutti si rivolgono, ma non ve ne eravate accorti che non si leggono? Allora, io spero che i ragazzi di Yemaya, con i quali siamo diventati amici sentano, ma tanto è una cosa che sanno benissimo più loro di me, perché insomma io non sono stato consultato fino all'uscita del gioco. Ok, capito, va bene. Io, come ho detto prima, non ho molti capelli, ma mi sarebbero cresciuti e rizzati istantaneamente, perché a una qualsiasi prova di stampa dilettantistica con la stampante di casa, tra l'altro io vedo malissimo, quindi io non sono in grado, possiamo dirlo, di giocare a Rashid così com'è. Non sono in grado perché sono troppo piccole, non li leggo, ho bisogno di una lente di ingrandimento, e questo ha determinato il tracollo del gioco fuori dalla fiera di Essen e la non distribuzione sul mercato americano, e delle critiche giuste, nonché spietate, al fatto che il gioco non è leggibile, almeno una parte del gioco. Sì. Poi io guarda, quando ne chiacchiero con gli amici, perché poi oltretutto quel titolo lì aveva anche una particolare cura per i componenti di altro tipo, cioè per tutta la componente in legno. Quindi, qui sono orgoglioso perché i componenti li ho progettati tutti io. Ah, bravo. No, la cura c'era, nel senso che li vedevi, sono tutti fatti a modino, per modo suo, eccetera, cioè sono una cosa apprezzabile da quel punto di vista. L'unica cosa è che effettivamente il tabellone veniva un po' in tinte di marroncino, e quindi facevi un po' fatica anche a identificare bene le zone. I caratteri utilizzati, che erano simpatici perché richiamavano l'arabo, però alla fine li leggevi male, e poi quelli proprio piccolini. Quindi c'è, diciamo, un insieme, è stato un curioso mix fra diciamo delle cose particolarmente ricercate con dei potenziali errori, diciamolo. Dobbiamo no, degli errori, perché potenziali, degli errori. Dobbiamo anche spezzare una amichevole lancia, o meglio di sotterrare l'ascia di guerra e poi rimetterla subito nel terreno a favore di Yemaya. Sì. Era il loro primo gioco. Molto ambizioso però, perché effettivamente per essere un primo titolo comunque aveva colpito. Io mi ricordo a Essen, cioè forse anche il fatto che magari a Essen non ti metti lì a leggere tutte le carte, a Essen aveva colpito. Avevano venduto benino per essere quello che era, e in classifica era arrivato in alto, molto in alto, tra i primi. Devo dire, lo stand era sempre pieno. Il gioco di per sé, come meccaniche, che sono, posso dirlo, la stragrande maggioranza del gioco è mio, nonostante ci sia un altro autore che è Giorgio De Michele, che mi ha aiutato. Abbiamo sfrangiato molto alcune cose inutili grazie a lui, e lui mi ha dato anche delle buone idee, però il gioco è mio, sostanzialmente. È mio, l'ho inventato, no, vero, io, sono un genio. Giorgio lo sa. Okay. No, tra l'altro lo saluto, è stato utilissimo, per carità. Quindi il gioco come meccaniche è piaciuto a tutti. Io non ho mai trovato nessuno che mi abbia detto il gioco non è bello per i suoi reali, le sue reali. Perché sei simpatico e dirti in faccia che il gioco fa schifo. Che fa schifo, è brutto. Lo fanno sui blog, quello. Esatto. Sì. E quindi no, può succedere, bisogna, sempre rivolgendosi ai giovani autori o in erba o al primo o secondo gioco, aspettatevi che prima o poi queste cose accadano, può succedere, soprattutto se l'editore è giovane e il gioco è complesso. Qualcosa in Yemaya, perché anche in teoria io mi aspettavo quest'anno di vedere a Essen Iperborea o quello. Pensa che anch'io e Andrea ci aspettavamo. Tutti aspettavamo tutti di vederlo sto titolo, e come mai non è arrivato? Perché ce la siamo tirata infinitamente nei 2 anni precedenti e poi non è arrivato. Allora, è talmente lungo e complesso spiegarti il perché che non lo farò se non con un riassunto che non rende giustizia. Firmeremo il contratto con una casa editrice tra le più grandi al mondo, possiamo dirlo, Asmodee. Uh-huh. Asmodee ci ha detto sì, no, forse, bravi, pessimi, geniali, più o meno in quest'ordine. Quindi era sostanzialmente, potremmo dire, lo facciamo noi di Asterion insieme ai ragazzi di Yemaya, non ve lo facciamo più, lo facciamo pochi. Forse autoproduzione. Ah, aspettate, Asmodee ci distribuisce anche sulla Luna. No, Asmodee non ne vuole più sapere. E quindi è andata così. È per quello che non lo vedete. Lo vedrete sicuramente con tanto di contratto, ormai siamo praticamente certi, ma lo dicevo anche l'anno scorso, per la prossima Essen, anzi uscirà probabilmente prima di Essen, e la prima europea sarà nella Essen del 2014. Sì. No, è il classico titolo che quest'anno non ce l'abbiamo fatta. Ce n'erano diversi quest'anno, sì. C'era Panamax, che è un altro per esempio atteso, c'eravate voi, ma ce n'è un buon numero, perché poi succede sempre così, c'era uno dell'autore di Snowdonia, anche lui doveva uscire, poi ha sbittato, cioè ogni anno è tipico. Io di solito diciamo apprezzo piuttosto che venga slittato un titolo, piuttosto che fatto uscire magari con dei buchi, perché poi fai le corse alla fine. Certo, questo è successo anche con Asgard, è successo anche con il gioco che ho detto prima, Simurgh della NSKN Games, in cui lui a Essen, giusto per raccontare a chi ci ascolta, come a volte gli editori trattano i giochi, lui avevamo questo colloquio di lavoro con Andrei Novak, si chiama Andrei Novak, e mi ha detto: guarda, sul tuo gioco ci conto moltissimo, per me è il prodotto più importante del prossimo anno che sto facendo, voglio farlo bene, per farlo bene c'è bisogno di tempo, e così, testuali parole tradotte dall'inglese: io vendo di più, tu guadagni di più e siamo tutti più felici. Lui vive di quello, se non vende non dà da mangiare ai suoi figli, quindi deve fare questo discorso. Quindi ha rimandato l'uscita, che doveva essere verso prima dell'estate, invece sarà ad Essen, ufficialmente ad Essen. Capito. Va bene, niente, diciamo che forse ho ritrovato il pulsante di off che non trovavo più, il tuo, e quindi diciamo che possiamo anche avviarci alla chiusura della chiacchierata. Io ti ringrazio per la disponibilità, abbiamo fatto un po' quattro chiacchiere in senso ampio, un po' su di te, ma anche su come si inizia l'avventura di Game Designer. Un saluto a te e a tutti quelli che sono arrivati a ascoltarci fino adesso. Ciao a tutti! Grazie, ciao!